L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, siamo pronti con le sette notizie più importanti dell'ultima settimana, cominciata come sempre sabato scorso, 1 novembre, e che si è conclusa ieri 7 novembre. I servizi, le interviste e i commenti che andremo a riascoltare sono già andati in onda nei GR di Radio 24. Sabato. Cominciamo il nostro avvicinamento a quella che è la notizia della settimana, dell'anno e forse anche oltre, cioè l'elezione di Barack Obama alla Casa Bianca. Andiamo nella terra d'origine del padre di Obama, l'Africa, che in questi giorni fa parlare di sé soprattutto per la guerra, le morti e l'emergenza continua in Congo. Il teatro degli scontri che oppongono ribelli e l'esercito regolare è la regione settentrionale Kivu Nord, con capitale Goma. Segnatevi questi nomi perché poi torneranno frequentemente nelle cronache che vi riproporremo. Tanti i morti e soprattutto centinaia di migliaia i profughi. Il punto nel servizio di Cristina Balotelli e poi una scheda di Cristina Carpinelli che ricostruisce la storia dei conflitti in Congo e soprattutto spiega i motivi che li hanno scatenati. Evitare un nuovo Ruanda, questa è la parola d'ordine della diplomazia internazionale che cerca di reagire, ma i tempi della diplomazia sono lenti e gli sfollati in Congo sono già più di 1.600.000. Lo ha denunciato il ministro degli esteri britannico David Miliband, che con il collega francese Bernard Kouchner ha raggiunto la capitale del Congo devastato dalla guerra civile tra le truppe governative del presidente Kabila e i ribelli guidati dal generale Nkunda. Miliband ha parlato di corridoio umanitario che deve essere aperto al più presto perché i soccorsi raggiungano i profughi nella zona degli scontri, minacciati ora da epidemie e malnutrizione. Mancano cibo e acqua. Donata Lodi, direttore dei programmi sul campo per UNICEF Italia. Sicuramente forze di interposizione servono, servirebbe però forse anche un impegno più serio da parte dei paesi che poi usano le risorse minerarie del Congo. E la sensazione a volte di chi lavora giù è che ci sia questo impegno molto a parole, poi nei fatti, tutto sommato, questa situazione di caos non voglio dire che conviene a tutti, ma quasi. Altri profughi, almeno 50.000, sono in fuga dalla città di Dungu, nell'estremo nord-est del paese, teatro di scontri tra i ribelli ugandesi dell'esercito di resistenza del Signore e le forze governative. Si dice che l'odio razziale sia una montatura per arrivare a gestire materie prime preziose come il rame, il petrolio, i diamanti, l'oro, l'argento, il coltan, che vale più dell'oro ed è un minerale richiestissimo dall'industria ultratecnologica e le concessioni si sono moltiplicate. Il coltan serve a ottimizzare il consumo della corrente elettrica nei chip di nuovissima generazione, in telefonini, telecamere, computer portatili. Detto questo, appare difficile parlare di guerre tribali tra Hutu e Tutsi. Da 10 anni in Congo, la gente non ha pace. Ci sono state 3 guerre tremende, 2,5 milioni di morti e milioni di profughi. Eppure, la missione del MONUC, che tra quelle ONU ha il budget tra i più alti mai stanziati, 1,2 miliardi di dollari, ha il paradossale compito di monitorare un processo di pace nel paese mai esistito. Sanno i profughi che chi resta fermo in questa terza guerra del Kivu muore in attesa che la comunità internazionale faccia qualcosa. Si torna allora alla cronaca di questa guerra, che parte da Kivu, la regione mineraria lontana dalla capitale Kinshasa, lontana dalle missioni ONU, sorvolata da elicotteri dei caschi blu che raccontano di aver visto distese deserte laddove c'erano villaggi e persone. Il leader dei ribelli è il generale Nkunda. È un Tutsi, alle sue spalle ha il sostegno dei Tutsi del Ruanda. In Congo ci sono più fosse comuni che villaggi. I bambini impugnano il fucile ubriachi e drogati già a 8 anni. Lunedì i primi aiuti umanitari partono dalla capitale di Kivu Nord, Goma, e si spostano verso est, in direzione degli sfollati. Lo spettacolo che si presenta agli occhi di chi porta soccorso è allo stesso tempo sorprendente e impressionante. Ancora la cronaca di Cristina Balotelli. Campi profughi vuoti, accampamenti rasi al suolo. È la scena che si è presentata agli occhi increduli degli operatori umanitari giunti nella zona di Rutshuru, a 75 chilometri da Goma. Quegli stessi campi nei giorni scorsi ospitavano circa 11.000 sfollati, fuggiti dai loro villaggi in balia dei combattimenti. La testimonianza di Edoardo Tagliani, responsabile dei progetti di AVSI in Congo. Ci sono voci che dicono effettivamente che i campi sono stati incendiati, ci sono altre voci che invece dicono che la popolazione è rientrata in autonomia alle loro case. Qui una delle cose più drammatiche è la mancanza di informazioni. Intanto le autorità della provincia del Nord Kivu hanno decretato il coprifuoco a Goma, circondata dai ribelli e già teatro di saccheggi e stupri. La diplomazia si muove con lentezza. L'Unione Europea ha promesso aiuti umanitari, ma non ha ancora preso una decisione sull'invio di una forza militare. Le truppe della missione ONU già presenti non sono in condizione di combattere. Servono nuove regole d'ingaggio. La situazione in Congo e soprattutto il suo tragico e inesorabile sviluppo fanno venire in mente la tragedia del Ruanda. Torniamo al 1994, quando il genocidio in Ruanda venne perpetrato nell'indifferenza generale delle potenze occidentali, dell'ONU, di tutti quelli che potevano e dovevano fare qualcosa. In effetti le truppe dell'ONU in Congo hanno poteri molto limitati e soltanto dopo l'inasprirsi degli scontri possono finalmente aprire il fuoco sui ribelli che assediano la città di Goma. Sentiamo sul Congo però il punto di vista di Alfredo Mantica, sottosegretario agli esteri con delega per l'Africa. L'intervista è di Laura Bettini ed è andata in onda giovedì nel giornale Extra Large. In Africa o nelle Afriche, anch'io condivido questa definizione, i paesi occidentali, ma soprattutto gli Stati Uniti, hanno sempre avuto un approccio bilaterale, cioè si sono scelti sempre gli amici o i paesi che per motivi geopolitici, interessi economici, erano più vicini agli interessi, oggi lo stanno facendo i cinesi, e non hanno mai considerato quello che invece l'Italia ha sempre fatto e l'Europa più di ogni altro, che i problemi africani devono incominciare a risolvere gli africani. Noi possiamo aiutare quelle strutture che esistono in Africa di carattere politico e istituzionale, che sono molto deboli ma che hanno una loro forza. L'Unione Africana, che raccoglie i 52 paesi africani tutti insieme, dal mondo arabo fino al Sudafrica, e le organizzazioni regionali che esistono sempre di carattere politico, che raggruppano stati più o meno legati da una storia, l'Africa occidentale piuttosto che l'Africa orientale, piuttosto che il Centro Africa. A leggere le agenzie che giorno dopo giorno arrivano dal Congo ci si trova di fronte ad una vera e propria ecatombe. Direi che la notizia più inquietante è quella che viene fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che parla addirittura di 2,5 milioni di persone che sono a rischio di epidemia di colera e di morbillo in Congo, in una zona peraltro dove non ci sono medicine. E veniamo alla giornata di ieri, venerdì, giornata importante perché a Nairobi, in Kenya, si svolge il vertice tra le parti in causa, sono coinvolti anche i paesi limitrofi della zona e soprattutto le Nazioni Unite. Intanto sentiamo però l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni, che parla in diretta nel GR Extra Large venerdì, quindi di ieri alle 13, e si trova nel Nord Kivu, la zona congolese, dove sono iniziate le violenze. Siamo a Goma, dove regna una calma apparente. La città però la tregua sembra mantenere qui nel centro, ma moltissimi mezzi della MONUC, contingenti delle Nazioni Unite, circolano con i mitra spianati. La tregua però tra le forze del Congo e i ribelli del generale Kunda sembra essere venuta meno già questa mattina. Solo a 7-10 km da qua, dove ci troviamo noi, sono ripresi violenti scontri tra le forze governative e i ribelli, con sembra anche tiri di mortaio. Migliaia di profughi si sono rifugiati nel centro di Goma, stanno correndo a qua. Scontri ancora violenti sono anche avvenuti a nord di Goma, qualche 20, 30, 40 chilometri a Kiwanja. Le forze ribelli sembra che abbiano commesso delle atrocità contro i civili, così denuncia il Congo, che ha usato parole durissime contro le Nazioni Unite, incapaci, secondo il governo di Kinshasa, di proteggere i civili. La situazione sta diventando esplosiva. Il Congo continua a accusare il Ruanda di sostenere ribelli, di avere persino bombardato il territorio congolese. Qualche settimana fa le Nazioni Unite hanno anche loro confermato che il Ruanda ha comunque compiuto qualche bombardamento. Abbiamo ricordato prima che ieri c'è stato un importante vertice a Nairobi sulla intricatissima, delicata, tragica vicenda del Congo. Vi hanno partecipato tra gli altri Ban Ki-moon in rappresentanza dell'ONU, poi c'erano sia i presidenti del Congo e del Ruanda. Alla fine è stato chiesto l'immediato cessate il fuoco e la creazione di un corridoio umanitario, è stato anche chiesto di dare ai caschi blu un mandato più forte nella regione. D'altra parte invece il portavoce dei ribelli hanno definito inutile il vertice di Nairobi. L'ottavo giorno. Domenica. Ci sono tanti appuntamenti con lo sport che non possiamo non raccontare e non rivivere qui in questa puntata dell'ottavo giorno. Partiamo dalla Formula 1 perché in Brasile c'è l'ultimo Gran Premio della stagione, sono ancora di fronte Ferrari e McLaren, Hamilton ha 7 punti di vantaggio su Massa che però corre in casa e ha il vantaggio di partire dalla pole position. L'inglese però per diventare campione del mondo ha bisogno di un posto abbastanza semplice in classifica finale, il quinto, sembra un risultato alla sua portata ma l'ultima gara è davvero da brividi. Sentiamo la cronaca di Dario Ricci e poi il commento di Mario Poltronieri. Si sciolgono nella pioggia di Interlagos le lacrime di Lewis Hamilton e Felipe Massa. Piange di gioia l'alfiere nero della McLaren che ritrova a due curve dalla fine quel mondiale che un anno fa aveva regalato a Kimi Raikkonen. Stavolta il regalo a Hamilton lo fa la Toyota di Timo Glock che si blocca sul più bello restituendo all'inglese a poche centinaia di metri dalla bandiera a scacchi il quinto posto che vale il titolo. A quel punto Felipe Massa stava già facendo festa per la vittoria nel Gran Premio davanti alla sua torsida e per un mondiale che gli dei della pioggia gli stavano recapitando giù dal cielo dritto dritto a Maranello. Niente da fare, e forse è giusto così. Il Gran Premio va a Felipe, alla Ferrari, Raikkonen terzo dietro ad Alonso, il mondiale costruttori. Ma i lampi di talento sui circuiti di tutto il mondo quest'anno gli ha regalati la stella nera di Hamilton, giusto allora incoronarlo imperatore, col sogno, magari già dal prossimo anno, di rubargli trono e scettro. Praticamente si è risolta la corsa perché Glock non ha cambiato le gomme come ha fatto tutti gli altri, ha perso 7 secondi e però c'è da dire che il suo compagno di squadra nelle stesse condizioni ha fatto più o meno lo stesso tempo, quindi non c'è da pensare che Glock abbia rallentato volutamente. Certo, è stata una grandissima delusione, soprattutto perché fino all'ultimo chilometro Massa era tranquillamente sicuro di vincere. Una corsa con dei colpi di scena che io non ricordo di aver mai visto in tanti anni di gare. Ha giocato naturalmente anche il suo ruolo la pioggia, si aspettava tutto il giorno, ha piovuto solo 5 minuti alla fine e 5 minuti all'inizio. Quindi diciamo una corsa che conferma comunque la Ferrari campione, i suoi piloti secondo e terzo, quindi è evidente che la Ferrari comunque è assolutamente competitiva. Hamilton è stato quel grande che ci si aspettava, anche se ha rischiato moltissimo, perché se non ci fosse stata la pioggia probabilmente non sarebbe riuscito a vincere. Domenica è giornata anche di calcio, ormai non è più l'unica in un campionato sempre più spezzettato che già negli anticipi di sabato ha visto la vittoria dell'Inter, rocambolesca 3-2 sul campo di Reggio Calabria, mentre la Juve ha piegato 2-0 la Roma. Il clou però per la giornata di domenica è a San Siro, Milan-Napoli, che vale il primo posto in classifica. La cronaca pallonare di Carlo Genta. Dopo 4 anni e 5 mesi, giorno più giorno meno, il Milan è da solo in testa alla classifica. L'ultima volta fu quella dello scudetto numero 17, nel giorno dell'addio di Roberto Baggio. Ci arriva con un centravanti argentino che segna nella porta sbagliata a 4 minuti dalla fine, dopo che un fuoriclasse brasiliano aveva sbagliato il primo rigore di tutta la stagione dopo 24 centri consecutivi dei cecchini della Serie A. Altri piccoli segnali. Può e deve dispiacere al Napoli, che ha confermato di scoppiare di salute, ma che ha perso i pezzi con l'infortunio di Hamsik e l'espulsione di Maggio ancora nel primo tempo. Poi si è fatto male anche Santa Croce. E lo 0-0 di sicuro non sarebbe stato uno scandalo. Ma intanto il Milan si mette dietro tutti, compresa l'Udinese che si incarta con il Genoa e che domenica sarà in casa dell'Inter. Il resto sono piccole storie, come il Siena che batte meritando la Fiorentina, come la rabbia del Torino, al quale Airoldi leva di tasca un gol, come il crollo di Bologna e Chievo, che sono a oggi le peggiori squadre della Serie A. Mi ricollego al finale del servizio di Carlo Genta, che ha citato l'amara, l'amarissima classifica di Chievo e Bologna. Le due squadre in settimana sono corse ai ripari con la soluzione peraltro più a portata di mano, cioè il cambio di allenatore. Mihajlovic ha preso il posto di Arrigoni sulla panchina del Bologna, mentre Iachini ha lasciato il Chievo, al suo posto è arrivato Di Carlo. Adesso però raccontiamo un'altra vicenda, umana e professionale, legata al calcio, di un uomo anzi che fino a pochi anni fa era un vero protagonista nel nostro campionato. Sentiamo Dario Ricci. Aveva detto che entro 2 mesi sarebbe tornato. Quando rivieni? Tra un paio di mesi. Invece sono 2 anni che Luciano Gaucci, ex presidente del Perugia, è latitante a Santo Domingo. È passata super giù una settimana da quando le Iene lo pescarono nel suo Buon Ritiro di Santo Domingo. Ma Luciano Gaucci, 69 anni, ex patron di Perugia, Catania, San Benedettese, Viterbese e Napoli, ai colpi di scena ci è abituato. E allora, malgrado l'accusa di associazione a delinquere per bancarotta fraudolenta per il crack del Perugia, Lucianone tornerà in Italia. Il motivo è serio, la custodia cautelare è stata sospesa per permettergli di visitare il fratello malato, ma il suo ritorno fa ripensare soprattutto ai ruggenti anni 90 del calcio italiano, quando Gaucci, imprenditore rampante col pallino dell'Ippica, mandò in fumo la promozione in B degli Umbri nel goffo tentativo di corrompere un arbitro regalandogli un cavallo. E poi i primi anni 2000, quando il suo Perugia divenne il pretesto per far provare l'ebbrezza della Serie A anche a Saadi Gheddafi, professione calciatore e soprattutto figlio del colonnello libico. Nel mezzo polemiche arbitrali, processi del lunedì, amanti vistose, milioni di euro spariti. Torna ora con una promessa, Gaucci: non occuparsi più di pallone. Ma il bel paese, che nel pallone c'è da sempre, potrà davvero fare a meno di lui? Il calcio ormai non si ferma mai e a metà settimana offre le grandissime emozioni della Champions League, un turno clamoroso, tra l'altro senza vittorie né di squadre inglesi né di squadre spagnole. Per quel che riguarda le italiane, la Roma risorge in casa contro il Chelsea, mentre l'Inter evita la figuraccia a Cipro pareggiando nel finale 3-3, una partita che all'inizio poteva vincere ma che poi avrebbe anche dovuto forse perdere. La perla però italiana della settimana è firmata dalla Juventus a Madrid. Carlo Genta. Da vecchia decrepita a magnifica signora, da Real a Real. Come cambia il mondo in 2 settimane, almeno nel calcio? A Torino pareva l'ultima spiaggia, saltata quella, 3 vittorie messe in fila in campionato e poi ieri sera il bollo notarile del Bernabeu che vale la qualificazione. Non si vince lì per caso, anche se, per la verità, è un Real Madrid con una pessima cera, come già si era capito guardandolo zoppicare nella Liga. Non c'è signora senza un cavaliere al braccio e quello è Del Piero, che sta continuando a vivere la sua interminabile estate indiana, da capocannoniere l'anno scorso in campionato a bomber di Champions ora, ogni volta un gol più bello dell'altro, come ieri sera a Madrid. E di più che cosa si può volere? Si poteva forse desiderare una euro settimana da incorniciare, sarebbe stata perfetta se la Fiorentina fosse riuscita a difendere il gol di Mutu da ciò che resta del Bayern Monaco. La Viola invece si è fatta riprendere da Boroschi nel finale e si batte il petto per non aver chiuso il conto. Adesso è quasi fuori. Lunedì. La partita sulla nuova Alitalia sembrava chiusa fino a qualche giorno fa e invece tutto torna di nuovo in discussione, tutto torna in ballo, per fortuna o per colpa di un gruppo di sigle sindacali, in particolare che rappresentano piloti, assistenti di volo e assistenti di terra, che resistono su posizioni contrarie alla firma. La cronaca di lunedì è di Vincenzo Miglietta. È una vera e propria bocciatura quella che il fronte del no riserva all'accordo firmato a Palazzo Chigi da CGL, CISL, UIL ed UGL, al termine di una lunga ed affollata assemblea in cui non sono mancati attimi di tensione, con il presidente dell'ANPAV Muccioli che ha dovuto abbandonare la sala, sono stati leader di piloti, assistenti di volo e personale di terra a spiegare le ragioni del rifiuto del piano avanzato dalla CAI di Colaninno, così Fabio Berti dell'ANPAC. Gli accordi non sono stati mantenuti, è per questo che siamo qui. Noi non abbiamo fatto nessun passo indietro, bisogna che questo sia chiaro. Il fronte del no ha annunciato nuove forme di mobilitazione e ha chiesto di fatto un ritorno a Palazzo Chigi al primo accordo che fu siglato a settembre. Andrea Cavola, SDL, non ha risparmiato critiche ai confederali. È inconcepibile che in un paese democratico chi in almeno 2 categorie non rappresenta praticamente nessuno e in quella di terra perde consensi costantemente ma sono rappresentative, decidano per 21.000 lavoratori. L'offerta della CAI, ha fatto intanto sapere il commissario straordinario Fantozzi, è vincolante ed irrevocabile fino al 30 novembre ed è unica e inscindibile. Il giorno dopo, martedì, arriva la secca replica di Colaninno, che guida la cordata CAI. Ai piloti Colaninno dice sostanzialmente: o dentro o fuori, la trattativa è una e non si cambia. Gli sviluppi nel servizio da Roma di Elisabetta Fiorito. Trattativa sempre più difficile per Alitalia. Il presidente della CAI Roberto Colaninno minaccia: se i piloti non firmeranno li prenderemo da altre compagnie, anche da Ryanair. Una risposta agli irlandesi che avevano minacciato nei giorni scorsi di voler prendere i comandanti Alitalia. Chi non accetta, dice Colaninno, finirà fuori. Per il governo poi perderà gli ammortizzatori sociali. Maurizio Sacconi, ministro del welfare. Ricordo a tutti qual è la legge, quella per cui se si rifiuta un lavoro analogo a quello precedente, che può avere perfino un reddito inferiore fino al 20%, si perdono i sussidi, gli ammortizzatori sociali di cui si fruisce. Protesta l'opposizione, Pierluigi Bersani del PD. Nessuno mette benzina sul fuoco, dopodiché ci sono le parti, ci sono i soggetti che devono discutere. Credo che il governo ha dimostrato fin qui di non saperla chiudere questa vicenda, no? Quindi adesso io spero che in qualche modo riescano a chiudere i soggetti sociali. Da parte della CAI, quindi, piloti e assistenti di volo saranno convocati uno ad uno senza sigle sindacali. E mercoledì arriva ufficialmente l'offerta della CAI per avviare la nuova Alitalia. Ci spiega tutto questo servizio di Francesca Malaguti. L'offerta di CAI per Alitalia vale 1 miliardo di euro. A comunicarlo è la stessa compagnia, specificando che la somma sarà pagata in più tranche, in parte mediante regolamento in denaro e in parte mediante accollo dei debiti. Viene smentita dunque la cifra di 400 milioni circolata nei mesi scorsi, mentre ancora si attende il prezzo di mercato per la compagnia, che sarà stimato dagli advisor del governo e del commissario. E mentre l'acquisizione procede, si sono riuniti ieri i due sindacati dei piloti che hanno rifiutato di siglare il piano sui contratti di CAI. Fabio Berti, presidente dell'ANPAC, ribadisce il no. CAI ha fatto dei passi indietro, il governo ha fatto dei passi indietro. Accordo firmato da tutti. Perché facciamo delle cose diverse? Cosa significa? Non si è mai sentita la parola sciopero qui dentro. Adesso vedremo quello che dovremo fare. Le due sigle minacciano ora azioni di protesta, ma comunque venerdì incontreranno il commissario Fantozzi, che ha convocato i sindacati. E come preannunciato anche dal servizio di Francesca Malaguti, ieri si compie l'atto finale di questa settimana, ancora una volta turbolente, di Alitalia. C'è l'incontro tra il commissario straordinario Fantozzi e i sindacati. Da Roma, Vincenzo Miglietta. Un appuntamento quello di oggi tra il commissario straordinario di Alitalia Fantozzi e tutte e 9 le sigle sindacali, convocato per un aggiornamento sulla delicata gestione di questa fase di transizione, la cessione degli asset alla CAI, la situazione debitoria, la cassa integrazione. Il processo, insomma, per il decollo della nuova compagnia aerea italiana non si ferma, nonostante resti ancora aperto il nodo contratto con i lavoratori rappresentati dalle sigle autonome. Queste ultime non demordono, chiedono anzi in una lettera inviata alla CAI e al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Letta una nuova convocazione a Palazzo Chigi per pervenire a una stesura tecnica di dettaglio dei testi dei contratti collettivi di lavoro. I lavoratori rappresentati intanto da ANPAC, UP, ANPAV, AVIA ed SDL torneranno a riunirsi in assemblea lunedì a Fiumicino. Sarà quello anche il momento per fare il punto sullo sciopero di 24 ore annunciato per il 25 novembre. I piloti intanto da questa mattina stanno attuando il cosiddetto sciopero bianco, applicando di fatto in modo fiscale le regole relative ai controlli che precedono il volo, rallentando quindi le operazioni. L'ottavo giorno. Martedì. È il 4 novembre, una giornata che per l'America, ma direi per tutto il mondo, entrerà nella storia. Tra poco parleremo della vittoria di Obama, che tecnicamente viene decretata quando in Italia ormai è già mercoledì. Restiamo però a martedì 4 novembre, che in Italia è anche la festa delle forze armate ed è anche la data che ricorda la vittoria nella prima guerra mondiale, e quest'anno cadono anche i 90 anni dell'anniversario. L'occasione però si trasforma anche in uno spunto polemico tra destra e sinistra. La miccia viene accesa, per così dire, da Piero Sansonetti, direttore di Liberazione, che chiede addirittura l'abolizione del 4 novembre, in quanto a suo giudizio simbolo antipacifista. Questo è invece il clima alla vigilia del 4 novembre. Dal punto di vista del ministro della difesa La Russa, il servizio è firmato da Elisabetta Fiorito. Plaude ai militari per la ricorrenza del 4 novembre e soprattutto per l'impegno in operazioni difficili all'estero, ma anche in Italia. Il ministro della difesa Ignazio La Russa infatti risponde a quanto sta succedendo in Campania. Quello che è avvenuto, a mio avviso, giustifica ancora di più la scelta ottima del ministro Maroni di rafforzare la presenza in Campania come ha fatto, perché invece purtroppo è una conferma, anche se non siamo a livelli di altre cose, per fortuna non c'è stata nessuna vittima. La Russa propone poi di far diventare il 4 novembre giorno festivo. Per il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, le forze armate non sono espressione di una nazione in guerra, ma costituiscono l'avanguardia per lo sviluppo sociale ed economico globale e per la cooperazione pacifica tra i popoli. Un ricordo ai militari caduti nella Grande Guerra viene anche dagli spot preparati dal Ministero della Difesa. Il 4 novembre 1918 finiva la Grande Guerra. Un evento che ha segnato in profondità la storia del XX secolo. Quel giorno è da allora dedicato alle forze armate. Quella che invece andiamo a riascoltare adesso è la cronaca della giornata proprio del 4 novembre, che prevede l'omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale un po' in tutta Italia. A Roma, a seguire la cerimonia, c'era per Radio 24 Francesca Malaguti. Una corona di alloro deposta sulla tomba del milite ignoto, all'altare della patria. Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha celebrato questa mattina il 4 novembre, 90° anniversario della fine della Grande Guerra e festa delle Forze Armate. Dopo l'inno nazionale, la banda ha suonato la canzone del Piave. Accanto al presidente Napolitano, a salire le scale dell'altare della patria, c'erano tutte le più alte cariche dello Stato. Oggi sono numerose le celebrazioni in tutta Italia. Napolitano si è recato questa mattina anche al Sacrario Militare Re di Puglia, accompagnato dal ministro della Difesa Ignazio La Russa, che nel suo discorso ha auspicato che il 4 novembre diventi una data per la storia condivisa di tutti gli italiani e che possa rinsaldare l'inscindibile legame tra militari e cittadini. Hanno approfittato della giornata per manifestare anche gli studenti della Sapienza di Roma, che hanno esposto davanti al Colosseo uno striscione con la scritta «Non pagheremo noi le vostre guerre, più fondi all'università e alla ricerca». Mercoledì. A man touched down on the moon. A wall came down in Berlin. And this year, in this election, to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. In Italia ormai è l'alba, invece a Chicago è ancora sera, una sera peraltro straordinariamente mite vista la stagione di martedì 4 novembre. Questo 4 novembre che va segnato nel calendario della storia perché, a prescindere che Obama piaccia o meno, a prescindere che si facesse il tifo per lui o per John McCain, è la prima volta che un candidato nero viene eletto presidente degli Stati Uniti. E allora riviviamo la cronaca di questa notte straordinaria del 4 novembre a Chicago con la voce dell'inviato Sergio Nava. La storia non si scrive con i se. Lo ha capito bene John McCain, che dall'altro capo dell'America, nel sud dell'Arizona, ha sentito arrivare l'onda sonora, sempre più potente e fragorosa, delle urla di gioia delle centinaia di migliaia di sostenitori di Barack Obama, assiepati come non mai nel perimetro cittadino di Grant Park. Chicago non ha mai dubitato, neppure per un istante, della vittoria del suo figlio adottivo Barack, quel giovane dal nome strano, arrivato qui una prima volta oltre 20 anni fa per aiutare i più diseredati della zona povera del South Side, è tornato meno di 10 anni dopo per sposare la sua Michelle e aiutare ancora una volta in veste di avvocato chi vive ai margini della società. Giovani, tanti giovani, persone di mezza età, anziani, neri, bianchi, latinos. A Grand Park stanotte c'era la Chicago dell'uomo della strada, la Chicago che incontri al caffè, al ristorante thailandese, al 7-Eleven o che più semplicemente incroci attraversando Michigan Avenue. Hanno atteso oltre 3 ore in piedi, dall'apertura dei cancelli con la corsa a prendere i posti in prima fila fino all'annuncio dei mega schermi che davano la prima proiezione ufficiale della CNN, Obama presidente. Hanno cantato l'inno nazionale, scandito slogan, ballato al ritmo dei frequenti intermezzi musicali. Poi se ne sono stati zitti, interrompendolo solo con alcuni calorosi applausi per tutto il breve discorso di Obama, limitandosi solo a ripetere in coro, quasi ipnoticamente, quasi fosse una preghiera dei fedeli dal sapore laico, quello slogan «Yes, we can», rievocato a ripetizione dal neopresidente. Infine, conclusa la cerimonia, hanno arrotolato le bandiere, ballato ancora un po' e ripreso la via di casa. La gente di Chicago è la migliore risposta a chi si ostina a sostenere che Barack Obama è un'entità astratta, un messaggero senza messaggio. Obama è uno di loro. È per questo che, da presidente, avrà qualcosa da dire all'America e al mondo. Per la cronaca vi diamo qualche numero su questa vittoria schiacciante di Obama, questa vittoria valanga come era stata pronosticata dai sondaggi, che in passato avevano invece sbagliato più di un colpo. Alla fine Obama vince con 364 grandi elettori contro i 163 di McCain. Il numero magico per entrare alla Casa Bianca, 270 elettori, è stato quindi ampiamente superato. Peraltro ci sono stati stati che fino a poco tempo fa erano in mano ai repubblicani, come la Florida, l'Ohio, la Virginia, che sono stati conquistati proprio da Obama. A completare questo trionfo, che chiude non soltanto l'epoca di Bush Jr., ma direi anche quel movimento neoconservatore inaugurato circa 30 anni fa da Reagan, arrivano anche le vittorie dei democratici sia al Senato che al Congresso. Di questo voto del 4 novembre bisogna ancora ricordare due cose. Prima di tutto bisogna rendere omaggio a John McCain, che da grande combattente quale sempre è stato si congeda da Phoenix con grande fair play, con grande classe, zittisce addirittura i fischi della sua base irrequieta quando dà l'omaggio, rende onore a Obama e alla sua vittoria. E poi c'è un altro voto parallelo a quello della Casa Bianca che va segnalato, quello del referendum sui matrimoni gay in California. Ci aggiorna da Los Angeles Daniela Raveda. La marcia verso l'emancipazione dei gay ha subito una brusca battuta d'arresto ieri in California. In un referendum popolare, la Proposition 8, l'elettorato californiano ha approvato con un risicato margine di vittoria del 52% un emendamento costituzionale che definisce il matrimonio come l'unione tra un uomo e una donna. Il passaggio del referendum invalida così la sentenza della Corte Suprema della California che lo scorso giugno aveva legalizzato il matrimonio gay. La vittoria del referendum anti-gay abbandona in uno stato di limbo legale le 14.000 coppie omosessuali che si sono unite in matrimonio nel corso degli ultimi 4 mesi, ma soprattutto affievolisce le speranze di una legalizzazione del matrimonio gay a livello nazionale. Gli attivisti californiani, convinti che la decisione popolare sia in violazione del principio costituzionale sulla parità dei diritti, non hanno tuttavia intenzione di arrendersi e hanno già annunciato che porteranno il caso di nuovo in tribunale. Lasciamo la California ai matrimoni gay e torniamo all'elezione della Casa Bianca. Per Obama, sembra strano ma è così, il difficile viene adesso. Infatti il nuovo presidente dovrà affrontare la crisi economica peggiore dal 1929 ad oggi e dovrà soprattutto soddisfare le attese, a volte eccessive, a volte persino spasmodiche, che molta gente ripone nei suoi confronti. Obama peraltro sta già lavorando alla nuova squadra di governo, ha scelto Rahm Emanuel, già uomo di Clinton, come capo del gabinetto. Però la curiosità maggiore, e questo è anche un segno dei tempi, sarà però quella attorno al nome del nuovo segretario al tesoro che dovrà gestire questa difficilissima crisi finanziaria. Ieri intanto, mentre è stato diffuso via internet un messaggio di Al-Qaeda in Iraq che esorta i nuovi capi della Casa Bianca e i loro alleati cristiani a convertirsi all'Islam, Obama incontra per la prima volta da presidente i giornalisti. Ecco la cronaca dell'inviato a Chicago Sergio Nava, proprio pochi minuti prima dell'incontro, ieri nel GR delle 19. Siamo in diretta dalla sala stampa dell'Hilton Hotel di Chicago, dove tra un'ora e mezza Barack Obama, presidente eletto degli Stati Uniti, farà la sua prima conferenza stampa. Una conferenza stampa che segue un incontro col suo team di consiglieri di transizione sull'economia, che include anche Warren Buffett, Robert Rubin e Lawrence Summers, e quindi l'economia come priorità delle priorità per l'amministrazione Obama, che quindi ne parlerà tra circa un'ora e mezza alle 20:30 in Italia. A determinare questa situazione un mix di componenti quali la crisi immobiliare, la crisi del credito e la crisi finanziaria. Obama probabilmente non sarà al G20 del 15 novembre e probabilmente oggi non farà alcuna o non annuncerà alcuna nomina per la sua amministrazione, che, lo ricordiamo, prenderà servizio il 20 gennaio 2009. Per chiudere questa lunga e meritata pagina dedicata al voto americano, dobbiamo tornare a casa nostra e a quelle che sono un po' le beghe della politica italiana. Infatti il giorno dopo l'elezione di Obama scatta subito il fiume in piena, irrequieto di commenti, analisi, previsioni, dichiarazioni di politici sia di destra che di sinistra, spesso a sproposito direi, per accaparrarsi il merito, il successo, il significato di questa vittoria di Obama. La battuta più bella è forse dell'ex ministro Parisi, che parlando del suo Partito Democratico dice: abbiamo vinto l'Ohio, ora bisogna vincere l'Abruzzo, con riferimento alle elezioni regionali che si celebreranno tra poco. Poi invece c'è Gasparri che con una battuta infelice collega la vittoria di Obama ad una surreale esultanza di Al-Qaeda, ma a fare notizia in tutto il mondo è il Presidente del Consiglio Berlusconi che parla da Mosca. E lì a Mosca ad ascoltarlo c'era Gerardo Pelosi. Se l'obiettivo era quello di differenziarsi rispetto a tutti gli altri capi di Stato e di Governo che gli hanno fatto in questi giorni i complimenti per l'elezione, ebbene, Silvio Berlusconi ha colpito nel centro. Il suo è il complimento che le agenzie anglosassoni definiscono unusual, inusuale. Obama ha tutto per poter andare d'accordo con lui, perché è giovane, è bello e anche abbronzato. È stato un complimento appunto inusuale, che non ha suscitato alcuna protesta per il richiamo velatamente razzista da parte delle autorità americane, ma ha creato un caso politico in Italia. Per il resto Berlusconi fa sfoggio di questa sua strategia del politically incorrect, un mix di diplomazia e beffa, definendo la sinistra triste e priva di humor, e dice così: era una carineria assoluta per far capire come tra giovani si potessero bene intendere. Poi ho sentito gli sproloqui che sono stati fatti su questo e ho detto quello che mi è venuto dal cuore: Dio ci salvi dagli imbecilli. In America la notizia circola subito, già nel pomeriggio di giovedì, grazie all'informatissimo sito di gossip politico Drudge Report, che si può considerare una sorta di dagospia naturalmente all'ennesima potenza. Ieri la notizia era su tutti i giornali americani e persino in Cina è arrivata. Poi naturalmente ci sono state le polemiche di cui sapete qui roventi in Italia. L'ottavo giorno. Giovedì. Gli occhi di tutti sono puntati sulla Banca Centrale Europea, deve pronunciarsi sui tassi di interesse e si prevedono tagli. Sentiamo allora la cronaca di Valeria De Rosa e poi il commento di Beda Romano. Il primo taglio un mese fa di concerto con le altre banche centrali, altro taglio ieri, un altro mezzo punto. Il mercato se lo aspettava, forse per questo i listini non hanno beneficiato dell'annuncio. Francoforte diventa aggressiva e si prepara a un nuovo intervento dopo che il Fondo Monetario ha tagliato le già pessimistiche stime di crescita. I don't exclude that we could decrease rates again. Non escludo che potremo tagliare i tassi di nuovo. Non ci impegniamo preventivamente e faremo tutto quanto riterremo necessario. We will do whatever is necessary. La situazione è così delicata che anche Trichet ha abbandonato la consueta prudenza, confessando che al consiglio direttivo i banchieri centrali hanno persino valutato di tagliare i tassi di 3/4 di punto. L'economia dell'Eurozona, ha detto il presidente della BCE, è di fronte a incertezze straordinariamente alte. L'Europa deve cercare di parlare con una voce sola, ne è convinto il presidente di turno dell'Unione Sarkozy, che ha convocato per oggi un vertice straordinario dei 27. L'obiettivo è quello di individuare insieme le proposte da presentare al vertice del G20, in programma a Washington a metà novembre. In queste ultime 4 settimane la Banca Centrale Europea ha dimostrato un certo coraggio. Ha ridotto il costo del denaro di 100 punti base con 2 allentamenti monetari, aprendo la porta a ulteriori riduzioni dei tassi di interesse. Mai la BCE si era dimostrata così aggressiva. Certo, i suoi critici potrebbero ricordare che in luglio aveva alzato i tassi di interesse in piena crisi finanziaria e mentre la tendenza tra le banche centrali era di ridurre il costo del denaro, non di alzarlo. Eppure, nel frattempo, la BCE ha preso la misura della crisi. Oggi ha deluso i mercati che si aspettavano un allentamento monetario più aggressivo. Potrà rifarsi in dicembre tagliando il costo del denaro di un altro mezzo punto percentuale. Nel frattempo l'onere passa alle banche commerciali, che devono assolutamente trasmettere gli allentamenti monetari ai loro clienti, imprese e famiglie. Non c'è dubbio che l'economia è il tema dominante sia nella politica europea ma anche per il nuovo presidente americano Obama. Wall Street, bisogna ricordarlo, il giorno dopo la vittoria del candidato democratico si presenta in difficoltà e ad aumentare l'allarme in America ci sono anche i dati diffusi sull'occupazione negli Stati Uniti. Ottobre è il 10° mese consecutivo in cui si sono persi posti di lavoro negli States. Ora siamo ai livelli peggiori degli ultimi 14 anni, quindi possiamo parlare davvero di recessione, con un tasso di disoccupazione al 6,5%. Ieri invece le borse europee e anche Wall Street hanno dato segni di ripresa, ma noi ci concentriamo sulla giornata meno brillante di giovedì, dopo l'annuncio proprio del taglio dei tassi di interesse della BCE. Anna Marino. La giornata per i listini europei inizia male, volge in peggio e si chiude in deciso ribasso. Milano chiude in calo del 5%, Francoforte perde il 6,84%, Parigi il 6,38% e Londra chiude in calo del 5,70%. A trascinare a ribasso l'Europa contribuiscono le cattive notizie che arrivano dal Fondo Monetario Internazionale in un aggiornamento straordinario del World Economic Outlook. L'organismo internazionale non parla ancora di recessione nelle economie avanzate per quest'anno, ma per il 2009 e opera una drastica sforbiciata le stime di crescita 2008 e 2009. Prevista una contrazione dello 0,3% per l'anno prossimo. Si tratterà della prima dal dopoguerra. Inoltre nel 2009 l'FMI rivede al ribasso la crescita in America, riduce le stime per Eurolandia e prevede per l'Italia una contrazione dell'economia dello 0,2% quest'anno e dello 0,6% nel 2009. Secondo il Fondo Monetario Internazionale serve un'azione globale per supportare i mercati finanziari e servono stimoli fiscali e monetari per aiutare a contenere il calo della crescita mondiale. Venerdì. Tiene ancora banco la protesta nel mondo della scuola e dell'università, che in queste ore è caldissima, soprattutto appunto nelle università. Il bersaglio è sempre lo stesso, il ministro Gelmini, che pure in questi giorni mostra delle aperture e sembra intenzionata a limitare i tagli. Quella di ieri è un'altra giornata di cortei, proteste e scontri. Ecco il racconto di Francesca Malaguti. Nessuna carica contro gli studenti alla stazione Ostiense, dice la polizia. Si è però conclusa con alcuni scontri la giornata di mobilitazione degli universitari e liceali romani che ieri hanno sfilato in centro. Una parte del corteo ha deviato verso la stazione. La polizia è intervenuta per evitare che venissero bloccati i binari. Il bilancio è di un ragazzo ferito alla testa e alcuni contusi, tra questi anche dei poliziotti e una giornalista. Il decreto varato giovedì non soddisfa gli studenti che manifestano. Ecco il commento di uno di loro, dal corteo della Sapienza. Continuano a essere penalizzate dai tagli del turnover le università che hanno più del 90% di bilancio speso in personale. Per noi politicamente il segnale è che comunque la Gelmini e il governo sono in difficoltà. Nemmeno i sindacati sembrano soddisfatti. La 133 non è stata toccata, sostiene il segretario della FLC-CGL Pantaleo, e Alberto Civica della UIL aggiunge: rimangono i tagli e non ci sono novità per i rinnovi contrattuali. Non abbiamo elementi per annullare lo sciopero del 14 novembre. Per capire quelli che sono i problemi, le esigenze, ma anche in fondo le speranze dei ricercatori italiani, molti di quelli che protestano anche in questi giorni, Radio 24 sta facendo un viaggio dedicato proprio a quelli tra i ricercatori che per scelta o per necessità sono andati a lavorare all'estero. Quella che ora riascolterete è l'intervista che Paola Nania ha fatto a Daniele Sanvitto, ricercatore in fisica all'Università Autonoma di Madrid. Ho finito l'università lì in Italia e poi sono andato a fare il dottorato in Inghilterra. E questo credo sia un percorso più interessante che rimanere nello stesso posto, come fanno altri o molti ricercatori che ho conosciuto. E il problema rispetto alla mobilità che c'è all'estero è che in Italia poi, se uno non fa questo percorso, cioè quello di, non so, rimanere con un professore a lungo, poi non riesce più a rientrare. Adesso si è assunto a tempo indeterminato? È un contratto interessante che c'è da 4 anni. Tu sei impiegato per un tempo di 5 anni, dove ti danno la possibilità di sviluppare la tua ricerca, non devi insegnare, e poi se hai fatto bene il tuo lavoro vieni premiato con il continuare con una posizione fissa. Insomma, pensi di rimanere in Spagna? Sì, scelgo la Spagna per motivi personali, ma anche perché è l'unico posto è uno dei pochi posti in Europa dove si fa bene ricerca. Perché si fa bene ricerca? Innanzitutto è un poco l'impegno che dà il governo rispetto a questo tema. C'è più impulso qui, nonostante venga da una situazione più difficile di quanto non ci sia in Italia. E poi perché mi sembra che ci sia meno lobby, quindi è più aperto. Soddisfatto di questa scelta di andare all'estero, qualche volta dei rimpianti? No, di tornare in Italia nessuno. Giovedì, quindi 24 ore prima delle proteste che abbiamo raccontato pochi minuti fa, e nello stesso giorno in cui il presidente della Camera Fini manifesta il suo disappunto per un eventuale ricorso alla fiducia sulla finanziaria, viene approvato però il decreto sull'università. I dettagli nel servizio di Francesca Malaguti. Il decreto varato ieri è solo il punto di partenza della riforma globale dell'università. Lo assicura il ministro Gelmini, che ha esposto anche le linee guida per il disegno di legge che prenderà forma in Parlamento. Prevedono una riforma del reclutamento dei docenti, un nuovo sistema di valutazione degli atenei e il riordino dei dottorati di ricerca. Più urgenti le misure contenute nel decreto. Le università con i bilanci in rosso non potranno assumere docenti e altro personale per un anno. Dal 2009 il 7% del fondo statale per gli atenei verrà assegnato in base alla produttività. Stanziati 135 milioni per le borse di studio agli studenti meritevoli e 65 milioni per le residenze universitarie. Confermato ma mitigato il blocco del turnover previsto dalla legge 133. La metà, e non più il 20% dei soldi risparmiati dai pensionamenti dei docenti, sarà utilizzato per nuove assunzioni, soprattutto in favore di ricercatori. E non ci sarà nessuno stop ai concorsi già banditi. Ora il ministro Gelmini confida in un confronto costruttivo. C'è tutto il tempo della legislatura in un clima di condivisione per affrontare punto per punto i temi che ho elencato. E siamo arrivati all'ottava notizia della settimana che ci riporta negli Stati Uniti e a quella che è la città del momento, Chicago, la patria di Obama. Praticamente nelle stesse ore in cui Obama diventa presidente, muore il celebre scrittore, ma non solo, era anche sceneggiatore, regista, produttore Michael Crichton. Il ricordo di Alessandra Tedesco. Il suo nome per molti è legato a Jurassic Park, bestseller scritto nel 90 e dal quale Steven Spielberg trasse un film di cui stiamo sentendo la colonna sonora. Di Crichton sono anche romanzi come Stato di paura, Sfera, Congo e Andromeda, libri che hanno venduto in tutto il mondo più di 150 milioni di copie e che vengono definiti techno-thriller, ossia un mix di azione, tecnologia e scienza. Impossibile però ingabbiare Crichton solo nel ruolo di scrittore. Da regista aveva diretto 5 film, fra cui nel 78 il thriller Coma Profondo. È passata la storia la scena in cui la dottoressa Susan, che indaga su misteriosi casi di coma, viene inseguita in una cella frigorifera fra i cadaveri congelati e incelofanati. Ma è diventata storica anche la serie televisiva ideata da Crichton. L'avete forse riconosciuta, parliamo di ER, Medici in prima linea, tratta da una raccolta di racconti di Crichton e la serie medica più famosa al mondo. Negli Stati Uniti stanno trasmettendo la 15ª e ultima stagione, che in Italia arriverà solo nel 2010. Sul ricordo di Michael Crichton e delle cose straordinarie che ha fatto sia nella letteratura che nel mondo del cinema e della televisione, si chiude questa puntata dell'Ottavo Giorno. Per scriversi vi ricordo ottavogiorno@radio24.it. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia. Da parte di Emiliano Enrico l'appuntamento è alla settimana prossima alla stessa ora, sempre su Radio 24.